tempo fa. Che sarà, chi lo sa, la ragione tu ce l'ha. Ma io, niente, ma non chiedo scusa, because I am very, very mad. Sono le 21 qui da Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. Come ogni mercoledì che si rispetti, inizia prove tecniche di trasmissione ormai da lontano 1992 su queste frequenze. Spazio dunque di Industrial Ambient Noise, giusto per darci una regolata sulle coordinate musicali. Il sito internet, anche per lo streaming, www.ondarossa.info, già direi abbondantemente frequentato. Per le comunicazioni mediante posta elettronica, ondarossa@ondarossa.info. Sul sito della radio e sulle pagine, diciamo, Facebook, Twitter, eccetera, di riferimento, nello specifico prove tecniche di trasmissione /disorder, domani ci sarà la registrazione di questo programma. Intorno alle 22.30 ci sarà 25 o'clock che andrà avanti fino nel cuore della notte. Saluto Maya e Nicola Locci dalla Sardegna. Stigmate, Hexagonal, eccetera. Tablo Rasa, Cortina d'Ampezzo, Antonio Zoviet come omicidio in quel di Firenze. Dalla Puglia, Roger Kemper. Anche lui è una, come dire, istituzione nel campo dell'industrial noise. Marco qui a Roma. A Roma abbiamo anche un new entry, Valentina, che andiamo a salutare. Alessandro Ragazzo, del quale ascolteremo qualcosa di lui più tardi. Davide Mastrullo di Canglore. Cristiano Bocci di Chemical Resistance e Duo Serpe. A Bergamo abbiamo Francesco Cornello, dalle Marche Manu Boschivo come Pioggia d'Ambra. Un saluto anche ad Alessandra a Fiamignano. Abbiamo anche Wurnus Island, anche questa un'istituzione del campo industrial, progetto storico dal Piemonte. Arianna Digni Lombardo e Flavio Derbecante come Noise Cluster. Eccoci qua, dunque andiamo un po' a riprendere anche per questa sera l'ultimissimo lavoro di Sigur Rós, un lavoro che vede anche la partecipazione veramente tangibile di Steindór Andersen, cantante folk islandese alla voce, Ilmarsson, già conosciuto come molti sapranno in passato con Current 93, e Maria Uldmarkan Sigufoddóstir. Questa squadra magica per questo ultimo lavoro dal nome Odin's Raven Magic. Il post rock, gli accenni di shoegaze, ma anche una forte componente neoclassica. Anzi, per essere precisi, più di modern classical, come si dice anche in questi tempi odierni. Soprattutto la partecipazione e l'ausilio di questa orchestra è molto evidenziato in queste due tracce dal nome Hashin Hviti e Spar Eda Sparkmal. sa rimni satti strakna skögula skuttum skaptjer nikars mat af miði mýmis hornum Marg svo fráum áltíð yfir Heimdat ágóð, hörgar loka Spár eða spakmál, sprund ef kendi Undorn ofram, unnsnam úma Veramente dei brividi, il fortissimo potere evocativo che sprigiona questo, anche questo ultimo lavoro per gli islandesi Sigur Rós. Forse questi due brani possono aver spiazzato, giacché non sono le solite sonorità che si sente qui a Prove Tecniche, ma anche questi passaggi decisamente neoclassici rappresentano uno dei massimi per quanto riguarda l'espressività di Sigur Rós. Si chiama Hodens Rain Magic. Sigur Rós rimasti in due rispetto al quartetto iniziale, quartetto che qualcuno avrà visto qui, che ho immortalato nel profilo Facebook. Ormai è rimasta la voce splendida che abbiamo sentito orora di Jonsi, John Birgenson anche alla chitarra e il bassista George Holm. Questo invece è Steindór Andersen, il succitato cantante folk islandese. Dunque vado a risalutare Alessandra, Valentina, Jean-Claude Berthaud dalla Val d'Aosta, il medico della peste qui a Roma. Al pari di Arianna, anch'io credo di tornare prima o poi in Islanda. Ho avuto la fortuna di andare lì tanti tanti anni fa ed è stato veramente un colpo di fulmine, posto decisamente particolare. E ripeto ancora una volta la mia impressione che indubbiamente è un disco bellissimo questo dei Sigur Rós, ma in qualche frangente forse è abbastanza sovrapponibile alla produzione di Björk, che starebbe assai bene alla voce anche in questo album. Niente in contrario, io amo anche Björk, ma i primi dischi forse erano più particolari per quanto riguarda Sigur Rós. Comunque, disco da annoverare tra le migliori uscite del 2020 per quanto mi riguarda. In questa circostanza, come giustamente mi viene ricordato, non cantano in Opelandic, la lingua inventata dai Sigur Rós, ma credo sia proprio in islandese vero e proprio. Sigur Rós in realtà è un nome che fa riferimento alla sorella più piccola del cantante. Andrò a vedere la esatta traduzione, ma il significato è più o meno quello, è una dedica, diciamo. Andiamo oltre, andiamo alla Nespresso Sounds, l'etichetta di Raffaele Pezzella in quel di Napoli, etichetta che da queste parti è assai popolare e da molti anni ci delizia con molte compilation, ma anche con artisti di alto livello. Questa sera una collaborazione veramente magica tra Cristiano Bocci, che vado a risalutare, di Chemical Resistance, e Duo Serpe, che va a trattare da par suo due ottimi pianisti che rispondono al nome di Mara Lepore e Francesco Arrighi. Questi ultimi due hanno composto dei bellissimi passaggi di pianismo notturno e Cristiano Bocci li ha trattati. Si chiama Anagrammi dunque e ci ascoltiamo la prima traccia. Prima traccia che porta il nome Acre per i roghi, la carne sfurna. Thank you. chiama Anagrammi questo lavoro, che vede la collaborazione di questi due talentuosi pianisti, Francesco Arrighi, piano sul canale sinistro, come leggo qui nelle note interne di copertina, Mara Lepore, piano sul canale destro, e Cristiano Bocci che va ad assemblare e a creare questi brani così intensi, queste quattro tracce assai lunghe. E la prima per questa sera era Acre per i roghi, la carne sforma. Naturalmente la prossima settimana ci ascolteremo un altro passaggio, ce li ascolteremo tutti e quattro. Anagrammi, che esce, come ho già detto, per la Nesplay Sounds label di Raffaele Pezzella, Factotum di Napoli, attivo anche come musicista con il suo progetto solista Sonologist. Altra etichetta di punta che ultimamente ha affollato le puntate di prove tecniche di trasmissione è la Lucesia di Sasha Rovelli e Nebojša Nabasić, etichetta di Bellinzona, quindi in Svizzera, che ha prodotto e fatto uscire questo disco di RD, ossia Roberto Drago, il 50% di The Tapes, una storica band un po' tra la wave degli anni 80 e la scuola post-industriale di quegli anni, che è tornata in attività, ma Roberto Drago ha anche intrapreso una via solista che è culminata con questo lavoro che porta il nome di Bodies Inspected. Ci ascoltiamo Parker, Flies and Rats Thrive e Central Crosstalk. We'll be right back. www.radiosesso.info e clicchi. Ok? Ora sto... Ancora RD Roberto Drago da questo Bodies Inspected. Album del 2020 per la luce sia di Bellinzona. Chiedo scusa per l'errore tecnico, avevo ricevuto una telefonata, mi si chiedeva come si poteva sentire Radio Onda Rossa dall'Abruzzo e quindi avete sentito in diretta. Meno male che non ho detto niente di compromettente, meglio sempre guardare il mixer in maniera ossessiva. Ringrazio Maya di avermelo ricordato. Dunque, questo era Roberto Drago, Bodies Inspected, un interessantissimo lavoro per la luce sia. Accenni di IBM, di synth pop, ma soprattutto una struttura industrial nella tradizione italiana post-industriale degli anni Ottanta. L'unione dell'elettronica e altre pulsioni più rumorose, è un universo che appartiene anche al prossimo artista belga dal nome Dirk Evans. Da queste parti è assai popolare sia come dive, e di lui infatti ci ascolteremo il suo ultimo lavoro Where Do We Go We From Here, e anche come Absolute Body Control, Sonar e una volta anche Clinic, un progetto che ormai è stato chiuso. Quindi, Where Do We Go From Here? Ultimo lavoro, ci ascoltiamo il brano omonimo e anche Inside Your Head in questa versione da Extended Play, leggermente diversa a quella contenuta in questo album e che apriva l'intero lavoro. Thank you.

ennesimo passaggio anche per questa sera, per questa ultima performance di Dive, Where Do We Go From Here? Album che effettivamente più di altri risente un po' dalla vecchia esperienza clinica ormai non più esistenti, quel progetto con Mark Verheggen, o meglio non c'è più Dirk Evans, mentre Mark Verheggen credo che stia meditando qualche uscita, prossima avventura. Un saluto a Gianluca Becuzzi. Andy Rivieni, di Attualità Nera, Lucia Cagliazza in arte Lupsi, Daniele della Hellbones Records. Lasciamo Dive e la prossima settimana ci andremo ad ascoltare le ultime due tracce di questa versione estesa, arricchita di quattro remix molto interessanti. Torniamo alla Nesplay Sounds label, Nesplay Sounds Group. Ci torniamo perché ci andiamo ad ascoltare, iniziamo questa sera, Anthology of Experimental Music from Mexico. Quindi questa sera un interessantissimo compendio della scena sperimentale messicana, e ovviamente non se ne sa tanto di questa scena, ma Pezzella ha tirato fuori il meglio del suo ricercatore che è dentro di lui, è andato a pescare artisti veramente veramente sotterranei che andremo a conoscere pian pianino. Questa sera ci ascoltiamo Rogelio Sosa con La Noce del Nelual e poi Texueque Band con Hakual With Me Kia.